24. La storia. 10 anni al potere in Inghilterra, il più giovane primo ministro che la Gran Bretagna abbia avuto dai tempi di Winston Churchill. Anthony Charles Blair, per tutti Tony Blair, classe 1953, un leader giovane, carismatico, audace e sicuro di sé, la cui carriera politica attraversa il consenso, la contestazione della piazza, la tragedia collettiva, il cinismo di una guerra discussa e discutibile, quella in Iraq. Quello che vi proponiamo oggi a Mix 24, alla vigilia delle elezioni in Gran Bretagna, è il ritratto di un leader politico inglese che ha segnato la storia, soprattutto imponendo un nuovo modo di fare politica, ridando così speranza ai partiti della sinistra in Europa. È la storia di Tony Blair. Quando Tony Blair si reca dalla regina per ricevere la nomina di primo ministro, dopo la sua prima vittoria elettorale del 1997, è un neofita dell'alta politica. Quello di primo ministro è stato il primo e unico incarico governativo che abbia mai avuto. Non so di quanti altri primi ministri si possa dire lo stesso. Blair è incerto perfino del protocollo dei suoi incontri con la Casa Reale. Ascoltiamolo. Credo di aver preso troppo alla lettera il fatto di baciare la mano. Cioè, pensavo che baciare la mano fosse... In realtà è semplicemente un gesto formale. Si chiama baciamano, ma in realtà non si deve proprio baciare. Lei invece lo ha fatto? Io non so cosa si vede nei filmati. E in quel film? Il dovere spetta a me, come sua sovrana, di invitarla a diventare primo ministro e a formare un governo in mio nome. Anche il film The Queen con Helen Mirren ironizza su quell'episodio. E se lei è d'accordo, si usa a dire sì. Sì. Ascoltiamo il leader dei Tory, William Hague, e poi Peter Mandelson, amico e consigliere di Blair. Blair era abbastanza irriverente verso tutte le istituzioni e le convenzioni, anche perché c'era questa idea che egli fosse il nuovo e portava un'ondata di freschezza. Questa idea alquanto ridicola che d'improvviso fossimo un paese giovane. Blair si insediò nel 1997 come una sorta di folletto, un entusiasta con una grande voglia di cambiare le cose e fare bene. Chiunque incontrassi, sia in ambito lavorativo ma anche in altri ambiti, tutti mi dicevano: non ho dubbi, voterò Blair. Non dicevano voterò laburista. Magari non erano tanto sicuri del partito, ma la persona Blair era diversa e lui lo sapeva. Era la voce di Peter Hyman, consigliere di Tony. Non appena arrivato a Downing Street, Blair attua veloci cambiamenti. Dopo solo 10 giorni annuncia di voler rendere indipendente la banca centrale e volerle dare il controllo sui tassi di interesse. Dimentica però di consultare i suoi più esperti colleghi e il suo gabinetto, con grande sorpresa del sottosegretario alla funzione pubblica, Lord Robin Butler. Blair mi disse: non ti preoccupare, saranno tutti d'accordo. Al che io replicai: ma non è questo il punto. Il punto è che in questo paese abbiamo un governo. Questa è una grossa decisione e penso che la gente chieda e si aspetti che tale decisione sia presa dal governo. Ma Blair non si pente di aver deciso autonomamente sull'indipendenza della banca centrale. Ascoltiamolo. Se avessimo convocato un consiglio di gabinetto e intavolato una discussione, qualcuno avrebbe certamente detto: è una pessima idea, o cosa del genere, e il governo sarebbe finito prima ancora di cominciare. Era esattamente quello che volevo evitare, una discussione infinita su questo tema. La spregiudicatezza con cui Blair affronta questa vicenda è la spia di un carattere autoritario. È il primo segnale di ciò che avverrà in seguito. Il modo in cui Tony Blair gestiva le cose era improntato alla volontà di mantenere per sé i suoi rapporti. E tutti sapevano che non avrebbero mantenuto il posto se avessero ostacolato questo suo modo di procedere. Nessun gabinetto, nessuna discussione. Blair viene accusato di aver formato un governo divano. Sentiamo ancora il racconto di William Hague, leader dei Tory, e Lord Robin Butler, segretario di gabinetto. Blair si stava sistemando le cose come se fosse una sorta di presidente dell'Inghilterra. Se chiedevi di essere ricevuto a Downing Street, lo trovavi in una piccola stanza seduto sul divano. Con i precedenti primi ministri non era mai successo. Li trovavi alla scrivania con qualcuno accanto che gli ricordava le cose. Da questo proveniva la loro autorità, dal gabinetto con cui dovevano lavorare insieme a tutti i colleghi. Ma a Blair tutto ciò non interessava. A dire il vero, io non credo che Blair abbia mai avuto un vero governo di gabinetto. Lui voleva condurre il governo in una direzione particolare. Era impaziente di farlo e non vedeva il motivo di tutti quei rallentamenti. Il fatto è che si viene eletti primo ministro per fare un determinato lavoro e allora o fai in modo di realizzare certe cose e allora ti dicono che ti comporti come un presidente, che strafai, che vuoi essere un capo di Stato e tutte quelle altre cose senza senso. Oppure non riesci a realizzarle e allora ti accusano di essere debole, incapace, inadatto. Fin dall'inizio ho deciso che fosse meglio ricevere il primo tipo di critiche anziché il secondo. In bilico dunque tra la volontà di un governo efficace e i tempi della democrazia, ma la vera svolta di Blair è nel suo rapporto con i media, che si contraddistingue con un'aggressività indistinta verso giornali, giornalisti e televisioni. Artefice insieme a lui un portavoce notoriamente duro, Alistair Campbell. La stampa a volte si ubriaca, decide lei l'agenda, spinge verso una direzione, forza lo stesso governo verso un certo orientamento. Se volevamo portare i media da un'altra parte, dovevamo essere più strategici, molto più propositivi, molto più aggressivi. La visione di Tony spesso era quella di blandire, di tentare la via della persuasione. Lavorò molto su questo. Io invece ero forse più aggressivo. Con la storia di Tony Blair riprendiamo dopo la viabilità. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta... Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Appena eletto, Tony Blair, 44 anni, parla di un governo che sia un nuovo Labour e di una nuova Inghilterra. Ma in cosa crede questo giovane premier così brillante e carismatico? All'inizio, nel definire quello in cui credeva e ciò che voleva realizzare nel partito e nel paese, Blair pensava più in termini di valori, di principi, di forti principi. All'inizio la principale preoccupazione del governo sembrano essere i titoli cubitali da prima pagina. Di questa strategia che diventa quasi un'ossessione ce ne parlano John Newbine, consigliere del Dipartimento Cultura, e poi il ministro della Salute, Tessa Jowell, del governo Blair. Spesso al Dipartimento per la Cultura succedeva, ad esempio, di venerdì pomeriggio che ricevevamo una telefonata. Ragazzi, abbiamo bisogno di una gran bella storia sul calcio per i giornali domenicali. Di solito a tale richiesta la risposta era: spiacenti, fottetevi, non c'è nessuna storia di calcio da raccontare, chiuso. Loro sbavavano per avere storie da scrivere nei domenicali. Credo che sia stata fondamentalmente questa la base della strategia mediatica. Il primo mandato di Blair fu caratterizzato da un orribile gergo manageriale. Parlavamo solo di target, di indicatori chiave di performance, usando acronimi di ogni sorta che la gente non capiva mai. Per un certo numero di anni ho portato sempre con me un quadernetto pieno di quelle idiozie che aggiornavo di continuo. Magari un giorno lo pubblicherò. Per Blair oggi quella strategia risulta un errore dei primi anni. In un certo senso, come governo nel primo anno, sì, direi soprattutto nel primo anno, procedevamo un po' come se fossimo ancora all'opposizione. E alla fine questo ha creato non pochi danni. Alcune azioni potevano apparire un po' sorprendenti, più in linea con quello che di solito fa l'opposizione. Anzi, direi tipiche di quando sei all'opposizione. Al contrario, se sei al governo dovresti avere una visione più a lungo termine. Ma quando Blair si appresta ad adottare una visione più a lungo termine, deve fare i conti con una fiera opposizione all'interno del suo stesso gabinetto. Il cancelliere dello scacchiere e ministro delle finanze, Gordon Brown, è amico e alleato di Blair fin dall'83, quando i due condividevano lo stesso ufficio. Ma quando nel 94 Blair ottiene la leadership del partito laburista, Brown non la prende bene e nel governo inglese quella del cancelliere è una posizione determinante. Di questa tensione tra Blair e Brown ce ne parla l'ex ministro del welfare, Frank Field e poi lo stesso Tony Blair. Tra Blair e Brown c'era una straordinaria tensione, ma mentre il primo ministro si comportava sempre in maniera gentile con il cancelliere, lui non lo ricambiava e tutti ci chiedevamo: ma chi glielo fa fare? Perché si comporta così? E perché il primo ministro gli permette di fare così? Quando è che si libererà di lui? Dall'altra parte del tavolo, il cancelliere gli mandava continui sguardi di odio, anzi direi che quasi grugniva contro di lui, mentre il primo ministro si comportava come un figlio adolescente che ha preso una brutta strada. È vero, il mio rapporto con Gordon era piuttosto inusuale, differente da qualsiasi altro rapporto politico tra un primo ministro e il suo cancelliere. Ed è anche vero, è inutile negarlo, che spesso tra noi due c'erano tensioni. Le tensioni tra il premier e Gordon Brown saranno una costante di tutto il mandato di Blair. Ma all'inizio, quando sembra che Blair non sbagli un colpo, nessuno lo sa. Nell'agosto del 97, intanto, di fronte a un trauma collettivo che paralizza l'Inghilterra, la popolarità di Blair aumenta. Parigi, 31 agosto 1997. Venni a sapere dell'incidente di Lady Diana attraverso un messaggio dall'ufficio monitoraggio media del Partito Laborista. Diceva: incidente a Parigi, Dodi morto, Diana gravemente ferita. Non è uno scherzo. Tony si trovava a Sedgefield ed ebbero qualche difficoltà a svegliarlo. Alla fine ci trovammo a parlare nel cuore della notte. Ci chiedevamo con chi fosse il caso che parlasse e cosa dovesse dire. Sapeva molto bene che quello era il primo momento da quando era premier che il paese intero avrebbe guardato a lui in modo diverso. Più che al leader, avrebbero guardato all'uomo. Si aspettavano che il leader democratico del paese avrebbe capito quello che provavano, ciò che il popolo sentiva. E Blair doveva agire molto, molto rapidamente. In queste situazioni puoi scegliere il protocollo e dire: il ruolo di un primo ministro è quello di provare ad articolare le sensazioni del suo popolo, eccetera, eccetera. Ma questo non era affatto quello che provavo. A essere sincero, ero sconvolto. Provavo un grande dolore per Lady Diana. E capii che in quel momento la gente voleva che quel sentimento fosse espresso. È stata la principessa del popolo. E tale resterà. Nei nostri cuori e nelle nostre menti, per sempre. Fu una frase pensata, ideata da lei stesso? Fu... La scrissi su un pezzo di carta. Non avevo molto tempo per scrivere un discorso. Quella mattina mi stavo recando in chiesa. E quindi buttai giù quella frase e a ripensarci anche adesso... Mi sembra ancora la cosa più giusta e ovvia da dire su di lei. La dichiarazione spontanea di Blair suscita un'esplosione straordinaria di pubblico dolore. Molti inglesi sentono che il loro primo ministro è in sintonia con loro ad un livello istintivo. Ma Blair si trova ben presto ad applicare le sue indubbie capacità di empatia umana in un contesto molto più complesso, l'Irlanda del Nord. Il suo compito è far sì che i repubblicani, che vogliono che la provincia divenga parte integrante dell'Irlanda, e gli unionisti, che invece desiderano che resti parte del Regno Unito, si siedano a un tavolo negoziale. Possiamo continuare con l'odio, gli omicidi e la disperazione, trattando gli uomini come se non facessero parte dell'umanità. Oppure possiamo provare a ricomporre le nostre differenze attraverso il negoziato, la discussione, il dibattito. L'idea generale, che anche molti miei amici avevano fatto propria perché gli veniva dal cuore, era che non avrebbe mai funzionato, che ero completamente matto. Mi dicevano, ok, provaci, ma non farti alcuna illusione. Si odiano, si odieranno sempre e andranno avanti così per decenni, per secoli. Non ci sarà mai una riconciliazione. Il momento decisivo arriva a Stormold, appena fuori Belfast, nella Settimana Santa del 1998. Blair vuole prendere parte di persona ai colloqui. È il 7 aprile del 98. Un giorno come quello di oggi non può essere macchiato da battute o facili ironie. Meglio lasciarle a casa, perché io sento la mano della storia appoggiata sulle nostre spalle. Lo penso davvero. In tutta quella questione c'era qualcosa che sembrava terribilmente vecchio, datato, antico. Voglio dire, cattolici e protestanti alla fine del XX secolo, qual è il problema? Dovrebbe essere una questione facile da risolvere. Vede, la forza e allo stesso tempo la debolezza della mia visione politica è che io sono sempre molto razionale nell'analisi di una situazione e penso sempre, beh, razionalmente dovrebbe andare così. Blair lavora di concerto con il premier irlandese Bertie Ahern. Tutte le persone coinvolte erano certe che io e Blair non avremmo mollato, che meritavamo di essere ascoltati, che avevamo ragione e che il futuro sarebbe stato migliore. Tutti sapevano inoltre che sull'Irlanda del Nord Tony aveva rischiato molto della sua credibilità politica. Per 48 ore Ahern e Blair fanno la spola tra unionisti e repubblicani. Alla fine, nelle prime ore del mattino, l'accordo è fatto. Ascoltiamo la conferenza stampa. I due governi e i partiti politici dell'Irlanda del Nord hanno raggiunto un accordo. Sarà il popolo dell'Irlanda del Nord a decidere democraticamente il proprio futuro. Molti ancora adesso guardano alla pace in Irlanda come il maggior successo di Blair, quello in cui egli ha saputo combinare carisma e persuasione con una volontà d'acciaio. In patria invece la rivalità tra lui e Gordon Brown non gli consente di sfoggiare la stessa determinazione. Blair e Brown avevano programmi differenti, priorità differenti. Il cancelliere, ragionevolmente e anche giustamente, si concentrava principalmente sui poveri. Il primo ministro, invece, si dedicava primariamente al paese intero. Voleva rendere il settore pubblico più efficace. I due avevano idee diverse sulla priorità della spesa pubblica e la collisione fu inevitabile. Blair è convinto che per rendere il sistema sanitario e scolastico più efficienti bisogna introdurre logiche di mercato. Se una persona continuerà a essere sicura del suo stipendio, a prescindere dal servizio che eroga, dalla propria capacità ad adattarsi ai mutamenti, allora secondo l'istinto naturale di ogni essere umano, quella persona smetterà di lavorare. Ma Brown e la sua cerchia al tesoro diffidano della direzione che Blair vuole imprimere al governo. John Burt, all'epoca consigliere di Blair. Blair era sempre più irritato dall'atteggiamento del cancelliere e non c'è dubbio che pensasse a come poter risolvere la questione. Se il partito laburista non ha mai avuto una maggioranza così forte nella storia inglese, il suo leader, per paradosso, non è mai stato così debole. Riprendiamo da qui dopo la pubblicità. Cuore Denari Expo, 8 profili, 2 coach, un cuoco e un nutrizionista e uno stile alimentare da cambiare. Ma non solo, c'è anche la nostra lista della spesa, ricca delle migliori offerte sul mercato e in linea con un acquisto consapevole e sostenibile, che sono poi le parole chiave di Expo. Il sedentario, l'over 50, lo stressato, la coppia con e senza figli, lo sportivo, il vegetariano, la donna in gravidanza, seguiremo 8 categorie in cui tutti potranno riconoscersi. E allora andate subito a completare il questionario che vi aspetta sul sito di Radio 24, Cuore Denari Expo, ogni mercoledì con Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani dalle 11 alle 12.30 su Radio 24. Mix 24, la storia. Bentrovati su Mix 24 con la storia di Tony Blair. È nella politica interna, ma soprattutto nel suo stesso partito, che il leader laburista incontra le maggiori difficoltà. Ma nel settembre del 2001, appena pochi mesi dopo un'altra vittoria elettorale, l'Inghilterra e il mondo intero hanno altro a cui pensare. 11 settembre è un punto di svolta nell'evoluzione politica di Tony Blair. Da populista ad idolo delle folle a politico dalle salde convinzioni. A far da sfondo alla sua reazione alla tragedia c'è la sua profonda fede religiosa. In tutto il mondo sentiamo la più profonda solidarietà, la determinazione a diffondere speranza al di là della tragedia. Io sento che sta per sorgere un nuovo spirito. Quella che avete appena sentito sono le parole che il primo ministro inglese Tony Blair pronuncia a Londra il 19 settembre del 2001 nella cattedrale di Westminster. Se fino a questo punto l'orientamento religioso di Blair è rimasto in ombra, adesso esce allo scoperto. Il suo portavoce Alistair Campbell così commenta quelle frasi. Questo cambiamento è particolarmente significativo perché modifica il suo modo di pensare e le sue parole. È particolarmente evidente anche perché è sempre stato un uomo alquanto irriverente, di quando in quando impreca. Se vede una bella donna, si volta a guardarla. Insomma, non è certo il classico uomo pio, dedito alla religione. A questo livello spirituale la fede influenzava molto le cose di cui parlava, che leggeva, quello che lui riteneva importante. Solo oggi, a distanza di anni, Blair ammette che la fede ha determinato la sua azione di governo. Non vedo perché dovrei negarlo. Io ho una fede convinta e non penso ci sia nulla di sbagliato nell'averla. Al contrario, penso che per le persone sia una forza. Non si può avere una fede e non esserne profondamente influenzati. Fa parte del tuo essere profondo. Se devo essere sincero, sì, naturalmente, per me è sempre stata molto importante. Ma fino a quando Blair è a Downing Street, il suo portavoce Alistair Campbell fa in modo che il pubblico non senta troppo parlare di Dio. Il motivo per cui Alistair diceva che non ci interessava Dio non era perché si opponeva alla religione, quanto piuttosto perché parlandone si rischiava sempre di avere dei problemi. In ogni caso, eccoci qui a parlarne. Beh, lui si riferiva a Dio e anche spesso. Sono sempre stato consapevole che almeno in Inghilterra la gente è sempre un po' diffidente verso chi mette Dio in politica. La mia preoccupazione era che i Tories lo avrebbero usato per dire quello che sostieni è che per essere un buon cristiano devi votare laburista. E questa non mi sembra una posizione raccomandabile per un politico. Anche George Bush, l'alleato fedele di Blair, è un cristiano convinto. Nel programma Newsnight della BBC, il 12 gennaio del 2003, Tony Blair viene intervistato da Jeremy Paxman proprio sull'amicizia con il presidente americano. Non vi capita di pregare assieme, ad esempio? No, non ci è mai capitato, Jeremy, no. Ma perché sorride? Beh, perché mi fai questa domanda? Perché vorrei capire cosa prova al riguardo. Forse. È certamente difficile parlare di fede nel nostro sistema politico. Se fossimo in America o in altri paesi con il loro sistema politico, sarebbe normale parlare di religione. Nessuno lo troverebbe sconveniente. Se invece ne parli qui da noi, la gente pensa che sei un fanatico. Per me è uscire dalle proprie cose. Sedersi e avere un dialogo con l'inquilino del piano di sopra. Poi tornare e dire ho avuto la risposta che cercavo. Ma quando Bush e Blair si preparano a invadere l'Iraq all'inizio del 2003, le certezze morali del premier inglese allarmano molti e la sua popolarità scende. In televisione viene attaccato duramente. Il problema sorgeva quando si metteva in dubbio la sua integrità. Lui ha sempre detto, potete essere d'accordo con me oppure no, potete avere visioni totalmente differenti, ma non mettete mai in dubbio le mie motivazioni e non pensate mai che cerco di ingannarvi. Quando qualcuno lo accusava di questo, si sentiva colpito nell'intimo. Avete sentito la voce di Sally Morgan, ministro delle pari opportunità del governo Blair. La fede religiosa di Blair diventa ora una fonte vitale di forza. Per farlo, per fare il lavoro di un primo ministro, bisogna essere sempre capaci di distaccarsi, in qualche modo, dall'enormità delle conseguenze che le proprie decisioni avranno. Ciò non significa, e vorrei spiegare bene questo concetto, che io sia insensibile a tali conseguenze o che io non mi preoccupi, ma se non hai la forza di alzarti ogni mattina e affrontare la valanga di critiche che ti piovono dall'alto o di guardare in faccia le persone che lavorano con te, persone nei cui volti leggi solo preoccupazione e angoscia o profondo disaccordo con ciò che stai facendo, insomma, se non hai questa forza, allora è difficile svolgere il proprio lavoro. Per me la fede è stata sempre una parte importante, proprio in questo senso. In Iraq, intanto, le forze inglesi devono presto fronteggiare una durissima controffensiva della guerriglia locale. Il 17 luglio del 2003, David Kelly, ispettore dell'ONU per gli armamenti iracheni, si suicida a seguito delle rivelazioni secondo cui il governo avrebbe mentito riguardo le armi di distruzione di massa possedute da Saddam. La popolarità di Blair scende ulteriormente e gli attacchi diventano molto duri. Ha di nuovo le mani sporche di sangue, primo ministro. Si dimetterà adesso? Nel gennaio del 2004 i media occidentali vengono a conoscenza delle prime immagini di torture e abusi perpetrati dagli americani in Iraq. L'appoggio morale alla guerra subisce un ulteriore colpo e con la riforma impantanate a causa dei dissidi interni, Blair mostra i primi segni di cedimento. Io credo che l'opinione pubblica fosse piuttosto depressa, e lui anche. Specialmente quando si cominciò a sapere delle atrocità commesse in Iraq, la gente cominciò veramente a pensare: non ce la farà, non è possibile che ce la faccia. La voce di Philip Gold, consigliere di Blair. Gordon Brown, che fin dall'inizio punta alla poltrona di Blair, è convinto che il suo momento sia arrivato. È in questo periodo che qualcuno gli attribuisce un duro scontro con il primo ministro, in cui Brown lo avrebbe invitato a dimettersi e a lasciargli il posto. Blair sembra non avere via di scampo. Ascoltiamo ancora il suo portavoce e poi l'amico Peter Mandelson. Ci fu un momento in cui perse molta della fiducia in se stesso. Cominciò a pensare che per vari motivi, non tutti politici, ormai tra lui e Gordon era davvero difficile. Dopo 8 anni nella politica moderna può succedere. E ricordo che in molte occasioni ce lo disse. C'è stato un momento in cui eravamo assolutamente certi che lui avesse preso una decisione. Addirittura io avevo già buttato giù qualche appunto per la conferenza stampa, per come presentare la decisione e dare l'annuncio. Credo che Blair stesse passando, mettiamola così, un periodo difficile con se stesso, molto difficile. Però, con l'estate 2004, Blair sembra riprendere coraggio. Blair si riprese. Decise che aveva ancora un mucchio di energie da spendere e che sarebbe andato dritto per la sua strada. E credo che ciò avvenne, in parte, e che tutta quell'energia la trovò anche per portare avanti le riforme del servizio pubblico. E dalla crisi emerge un Blair nuovo, più determinato di prima. Negli ultimi anni del mio mandato come primo ministro, mi sono rafforzato sempre di più nell'opinione che dovevamo combattere per ciò che era giusto, che io stesso dovevo fare ciò che era giusto. E in un certo senso mi sono sentito sempre di più dentro il ruolo di primo ministro. E la parte ironica della mia situazione fu che, proprio nel momento in cui cominciavo a perdere popolarità e consensi, proprio allora aumentò la fiducia in me stesso, nel continuare a fare il mio lavoro e prendere determinate decisioni. Estate 2004, Blair prende alcune importanti decisioni. Alza il telefono e chiama il suo vecchio amico, Peter Mandelson. Tony mi chiamò e mi disse: ho alcune cose da comunicarti. E quali sarebbero? Dissi io. Mi rispose: prima di tutto, quando all'inizio dell'anno pensavo che a breve mi sarei dimesso, mi sono comprato una casa piuttosto cara nel centro di Londra. Bene, dissi io. E allora? Allora, aggiunse, non l'avevo mai detto a nessuno e sarà in prima pagina sul Living Standard di domani. Io gli dissi: penso che riusciremo a superare anche questa. E lui: ok, ma la seconda cosa che volevo dirti è che domani mi opero al cuore. Al cuore, feci io. Sì, ma non preoccuparti, sono solo piccoli problemi che devono essere sistemati, i battiti devono cambiare o qualcosa del genere. Dissi: va bene, anche se mi sembra una questione un po' più seria della casa. E lui aggiunse: e poi annuncerò che non correrò per la quarta elezione, anche se saremo di nuovo vincitori il prossimo anno, come tutti si aspettano. Finirò il mandato e poi basta. E io gli dissi: non sono sicuro che sia una buona idea. Blair ha ormai preso la ferma decisione di non dimettersi. Correrà alle prossime elezioni, ma sarà per l'ultima volta. Lei ha deciso per quanto ancora resterà primo ministro? Se sarò eletto, finirò il mio terzo mandato. Non correrò per un quarto. Non penso che gli inglesi vogliano lo stesso primo ministro per così lungo tempo. Credo quindi che sia giusto chiarire le mie intenzioni adesso. Londra, 5 maggio 2005. Blair vince per la terza volta. Come ci si sente a far parte di un governo laburista per il terzo mandato? La sensazione a Downing Street era che Tony con molta probabilità non avrebbe avuto più di metà del mandato per le sue scelte e che se voleva usare quella metà in modo efficace avrebbe dovuto prendere il controllo totale dell'azione di governo sul fronte interno. È la prima volta che il Partito Laburista raggiunge un terzo mandato consecutivo. Blair vince con una maggioranza fortemente ridotta, ma ora è un uomo che ha fretta di portare avanti il suo ordine del giorno. Ripartiamo da qui, dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Il 7 luglio del 2005, due mesi dopo la nuova vittoria di Blair alle elezioni, il terrorismo sbarca a Londra con una serie di attentati suicidi al sistema di trasporto pubblico. La risposta di Blair mostra che non ha affatto perso l'orecchio per la retorica populista, né la capacità di intercettare gli umori del popolo. Gli attentati di oggi non riusciranno a indebolire in alcun modo la nostra risolutezza a tenere fermi i principi più saldi delle nostre società. Ben presto emerge il nuovo e più aggressivo Blair. Il premier spinge per far passare una legge che permetta la detenzione per 90 giorni anche senza un'accusa di sospetto terrorismo. Ma per la prima volta da quando è primo ministro, Blair viene battuto in Parlamento. I no a sinistra, 322. A volte è meglio perdere e fare la cosa giusta, piuttosto che vincere e sbagliare. Blair ora deve affrontare una vasta serie di questioni sia esterne che interne, ed è solo contro tutti. Sempre più si affida al suo istinto e alle sue convinzioni, anche quando è di fronte all'opposizione dell'opinione pubblica e del suo partito. Matthew Taylor è uno dei suoi consiglieri politici. Si era convinto, ad esempio, della necessità di riformare i servizi pubblici. Bisognava riformare il sistema pensionistico in modo radicale. Poi bisognava andare avanti in Iraq. E non aveva alcuna intenzione di rinunciare a queste cose, per nulla al mondo. Tony a volte criticava il proprio operato. Ma la cosa comica era che quando succedeva, era per dire: avrei dovuto dare più ascolto al mio istinto prima. Insomma, si criticava per non aver ascoltato la sua voce a sufficienza. Blair è dolorosamente consapevole di quanto ormai sia divenuto impopolare. Quando nel 2006 scoppia una crisi in Libano, l'attrito di Blair con il suo partito, ma anche con l'opinione pubblica, assume una nuova dimensione. In risposta agli attacchi missilistici di Hezbollah, Israele dà il via a un'operazione militare su vasta scala. L'attacco provoca centinaia di vittime e una dura condanna di Israele da vasti settori dell'opinione pubblica mondiale. Blair, tuttavia, rifiuta di chiedere ad Israele di fermarsi. Si apre un'ulteriore crisi di fiducia nei confronti di Blair. Ci fu il tipico rifiuto del primo ministro di dire qualche parola di conforto al proprio partito. Blair temeva che così facendo avrebbe perso di credibilità con gli israeliani, con gli americani e con il governo libanese. C'era tutta una serie di persone attorno a lui che mendicavano qualche parola di appoggio per tenere il partito tranquillo, ma lui non disse una parola. Per molti esponenti del Partito Laburista il Libano è il colpo finale. 17 parlamentari del suo partito scrivono a Blair invitandolo a dimettersi. Secondo alcuni è l'inizio di un tentativo di golpe. Uno dei parlamentari ribelli, Tom Watson, appena due giorni prima fa visita a Gordon Brown in Scozia. A quanto dice, scopo del viaggio era consegnare un regalo al figlio di Brown. Gordon Brown tace, Blair invece è furioso. Eravamo convinti che intorno a Gordon ci fosse chi sapeva perfettamente cosa stava succedendo e avrebbe potuto cercare di fermare tutto, ma nessuno lo fece. Alla fine Blair viene costretto a decidere un rapido piano per l'uscita di scena. Decide allora di lasciare entro il 2007. La prossima conferenza del partito sarà la mia ultima da leader. È il 2007, giugno del 2007, Tony Blair lascia il numero 10 di Downing Street tra le urla dei manifestanti ancora furiosi per la guerra in Iraq. Leonardo Maisano, corrispondente a Londra del Sole 24 Ore. Cosa resta, se resta qualcosa, dell'eredità di Tony Blair nell'attuale Partito Laburista? Restano delle politiche che sono state inevitabilmente cambiate per sempre. Quali? Il rapporto con le trade union è certamente un rapporto che è che Blair ha mutato alla radice e che, nonostante Miliband abbia in qualche modo recuperato, non nella misura precedente. Cioè, diciamo, più di mediazione quello di Miliband o no? Sì, certamente più di mediazione. Miliband è nel solco del laburismo tradizionale, molto vicino a Neil Kinnock, che fu il grande oppositore di Margaret Thatcher. Ma Ed Miliband si è ispirato a Tony Blair in questa campagna elettorale inglese che si sta chiudendo? No, assolutamente, anche perché il campione di Tony Blair era suo fratello David, che fu battuto da Ed Miliband durante la campagna per la leadership del partito dopo le dimissioni di Gordon Brown. Quindi erano due fratelli, uno su una posizione, come dire, bleriana, David, e uno su una posizione, quindi ha preso le distanze, radicale, Ed, e Ed ha vinto, per cui non poteva recuperare Blair. Nonostante Blair si sia speso in qualche modo, con una certa timidezza devo dire, però si è speso a favore di Miliband in questa campagna elettorale. Leonardo Maisano, ma Blair si può definire l'ultimo grande leader inglese? Sì, assolutamente, direi che negli ultimi 40 anni lui e Margaret Thatcher sono stati i due grandi leader, Margaret Thatcher e lui, personalità che alcuni ritengono avere anche tratti in comune, nonostante siano legati a partiti completamente diversi, il Partito Conservatore e il Partito Laburista. Però in un momento in cui emerse Blair, molti, anche commentatori della destra, videro in lui l'ideale successore di Margaret Thatcher, perché era un apprezzamento della personalità più che della... Un po' come sta avvenendo e avvenuto da noi con Renzi, almeno l'opinione pubblica a volte dice così. Ma Blair ha cambiato per sempre la sinistra europea? Direi di sì. In che cosa? Ha abbattuto una certa contrapposizione ideologica, è diventata una sinistra molto più dialogante, come dire, su posizioni molto meno conflittuali con la destra, su aspetti di programma importanti. Quel confronto che invece in questa campagna elettorale di adesso in qualche modo vediamo riemergere, cioè abbiamo le due parti, Cameron e Miliband, che in una certa misura vanno a trincerarsi in aree che sono quelle tradizionali, come dire, della contrapposizione ideologica. Ma l'Independent, giornale di sinistra, ha dichiarato che per il bene della Gran Bretagna si augura che vinca Cameron. Come te lo spieghi? No, non è esattamente così. Si è augurato che vinca la coalizione Cameron e Clegg, cioè conservatori liberal-democratici. In altre parole, una riedizione della formula di governo uscente. Perché? Se lo augura per un semplice motivo, che l'ipotesi di un governo laburista in questo momento contempla anche la partecipazione in qualche modo al governo o comunque un sostegno esterno dei nazionalisti scozzesi, che per un impazzimento del sistema elettorale britannico prenderanno un numero enorme di voti, 50-60 deputati, pur avendo su base nazionale un consenso che non va oltre il 4%. Questo è uno degli aspetti più curiosi di questa campagna elettorale, dove il bipartitismo lascia spazio a una pluralità di partiti e di forze, che saranno almeno 5, perché c'è l'UKIP, ci sono i nazionalisti gallesi, i nazionalisti scozzesi. Bene, in questo sistema a più voci, il maggioritario secco, il first past the post inglese, che si basava su una contrapposizione a due, non garantisce più quella governabilità che era invece l'elemento, come dire, che contraddistingueva il sistema elettorale inglese, che è stato un sistema preso ad esempio in tutta Europa perché garantiva governabilità. Ora non ci sarà governabilità. Quindi la legge elettorale a cui, come dicevi, molti si sono ispirati, tra cui anche noi con l'Italicum, non garantisce direttamente la governabilità. Non è detto. L'italico è molto diverso dal first past the post, però questa idea di una legge elettorale che predilige la governabilità, nel caso inglese lo ha fatto per... Ora non lo fa più. Per moltissimi anni, in questo momento non lo fa più. Diciamo dovuto alle forze regionali? Dovuto al modo in cui è strutturato il sistema elettorale, che consente, come dire, di premia i partiti che sono concentrati in aree geografiche. Quindi i nazionalisti scozzesi sono tutti in Scozia e quindi lì fanno il pieno di deputati. Chi, un partito come l'UKIP, per esempio, gli eurofobi di Nigel Farage, sono sparsi in modo superficiale su tutto il territorio nazionale, prenderanno il 12-13% dei voti, ma probabilmente manderanno 2 o 3 deputati. I nazionalisti scozzesi piglieranno il 4% e manderanno 60 deputati, al punto che saranno l'unica forza in grado di garantire ai laburisti un eventuale ingresso a Downing Street. E la vittoria dei regionalismi. Sì, certo, quello che si profila è è veramente il rischio della possibile esplosione del Regno Unito per come lo conosciamo.